Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:12, oggi è giovedì 19 settembre e noi oggi a Salva Danaio ci occupiamo di certificati medici, di certificati nell'ambito del lavoro, come sono cambiate un po' le regole quest'anno, cerchiamo di fare con voi il punto della situazione e poi in particolare parleremo anche della presentazione del certificato medico quando si devono svolgere attività sportive, perché anche in questo caso sono cambiate le regole, diciamo che sono cambiate più volte le regole in questi mesi, quindi magari è opportuno fare il punto della situazione per capire un po' adesso che ricomincia l'anno e ricominciano le attività sportive per molti di noi, per i nostri figli, come bisogna comportarsi, quali sono le richieste che potrebbero venirci dalle palestre, dalle piscine e come dobbiamo rispondere alle stesse. Come sempre lo faremo con l'aiuto di ospiti, prima però vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Prima di concentrarci sul tema di oggi, però, andiamo ancora velocemente a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Quest'oggi è una giornata euforica per i listini. Ieri nessuno se lo aspettava, ma la Fed ha deciso di non variare di una virgola, almeno per il momento, il piano di stimolo all'economia, e quindi l'acquisto di titoli mensile pari a 85 miliardi non viene per il momento toccato, né è stato comunicato una sorta di calendario per cercare poi di ridurre gradualmente questo piano di stimoli all'economia, che in prima battuta si era detto doveva concludersi entro la metà del prossimo anno. Staremo a vedere. Il costo del denaro è rimasto lo stesso, quindi in una forchetta tra lo 0 e lo 0,25%, la Fed ha tagliato le stime per la crescita americana per l'anno in corso e per il prossimo anno. In ogni caso, le decisioni o le non decisioni, a seconda di come vogliamo leggerle, della Fed sono state lette positivamente da tutti i listini. Ieri sera chiusura positiva per il Dow Jones, per il Nasdaq, per lo Standard & Poor's. Questa mattina chiusura positiva per il Nikkei più 1,8%, e in questo momento l'Europa viaggia tutta con il segno più. Parigi guadagna l'1,13%, Francoforte continua ad aggiornare i propri massimi più 1,17%, Londra guadagna l'1,43%, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,09%, il FTSE All Share leggermente al di sotto del punto percentuale. Sul listino principale il miglior titolo è Mediolanum più 3,62%, Intesa San Paolo guadagna il 3,22%, Azimut più 2,96%, Tenaris il 2,81%, Unicredit più 2,74%, ma bene, lo dicevamo anche nel corso del GR, tutto il comparto bancario. In fondo al listino invece troviamo Mediaset che cede il 2,2% in questo momento, Ansaldo cede mezzo punto percentuale, Generali lo 0,4%, TOZ lo 0,22%. Euro su dollaro, l'euro si è molto rafforzato dopo appunto la decisione della Fed, 1,3554 è il cambio in questo momento, mentre per quel che riguarda il differenziale tra BTP e Bund, già questa mattina apertura in lieve calo, in questo momento siamo a 236 punti base e non ci si discosta da questa soglia 235-236 fin dalle prime battute. Vi ricordo ancora i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora a questo punto è proprio il caso di addentrarci nel tema di oggi. Chi è? Corsetti remo, artrose colonna vertebrale. Sì. Dove hai fatto le altre? Radio Rocco Filopanti, mi ci ha mandato lei. E certo, quella che avevi non si vedeva niente. Vedi quarta e quinta vertebra, vedi com'è chiara? 10.000 lire, è chiara, sì. Sì, piegano un po'. Oh! Traumatologico, gli fanno il busto. Ma col busto non posso più lavorare. Che lavoro fai? Sono impiegata ai posti, ufficio team. E beh, timbri in piedi. Allora, abbiamo voluto cercare un inizio un po' più divertente per portare un po' il sorriso. Ovviamente il tema però è un tema molto serio, quello dei certificati medici, come sono cambiate le regole nel corso di questo anno. Lo affronteremo questo tema sia dal punto di vista, diciamo, delle necessità di lavoro, quindi quando ci ammaliamo ed è poi d'obbligo presentare il certificato medico al datore di lavoro, e poi più avanti invece vedremo anche tutta la tematica relativa ai certificati medici da presentare quando si svolgono attività sportive. Sono già collegati telefonicamente con noi due dei nostri tre ospiti di oggi. Allora saluto il dottor Silvestro Scotti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E saluto anche il collega Luciano Fassari, giornalista di Quotidiano Sanità. Ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, Luciano, vorrei cominciare da te, perché così magari in modo molto semplice diciamo anche un po' come sono cambiate le regole per noi lavoratori, perché questo poi riguarda un po' tutti quando ci ammaliamo e dobbiamo presentare il certificato medico. Noi in realtà ne parliamo oggi perché abbiamo preso spunto da una sentenza ormai passata in giudicato della Cassazione: 4 giorni di assenza non coperti da certificato medico e la malattia è diventata motivo di licenziamento. Però diciamo che, senza arrivare a questo che è un caso un po' estremo, un caso limite, ci sono comunque delle novità che sono arrivate con l'inizio dell'anno e con le quali abbiamo dovuto farci un po' i conti durante questi mesi, perché sono state anche delle novità telematiche per cui non tutti i soggetti erano pronti. Chiaro, proprio così. Stiamo affrontando quello, insomma, che è un po' la digitalizzazione di tutto il sistema, ma ciò riguarda anche i certificati di malattia, che sostanzialmente è questa proprio la grande novità, ovvero vengono inviati automaticamente online direttamente dal medico all'INPS, che poi comunica al lavoratore il numero di protocollo, diciamo, della pratica, e poi invia direttamente al datore di lavoro. Quindi sostanzialmente il sistema, ecco, spiegato così, è facilissimo e, certo, e agevola di molto. Il problema però, appunto, è che nella fattispecie, per esempio, del caso che citavi della Cassazione, sì, il primo certificato fu rilasciato dall'ospedale, e per gli ospedali, per esempio, non c'è ancora l'obbligo di certificazione online, o perlomeno c'è, ma c'è una specie di timing fissato per il marzo prossimo. Quindi lì è accaduto sostanzialmente che il lavoratore aveva poi inviato successivamente un altro certificato, però non corrispondevano le date di certo, di i assenza. Giorni. Quindi in quel caso è chiaro che bisogna stare attenti, ecco, da lavoratore il suggerimento è quello di guardare sempre, ecco, insomma, di non pensare, perché proprio il fatto che il sistema sia automatizzato, che automaticamente poi le cose funzionino. Senti Luciano, diciamo e ribadiamolo per tutti, qual è l'obbligo in capo al lavoratore? Quello esclusivo di comunicare il numero di protocollo? Ci sono altri obblighi? Allora, il lavoratore sostanzialmente, una volta che l'invio online effettuato dal medico soddisfa questo obbligo del lavoratore di recapitare o inviare l'attestazione, sì, di malattia, rimane però l'obbligo, appunto, di informare il proprio datore di lavoro dell'assenza e dell'indirizzo per il quale, per esempio, sarà riferibile, certo, per le eventuali visite medico-fiscali, ma lì sappiamo che le hanno tagliate, quindi ne abbiamo già certo, parlato. Anche per quello non ci sono le risorse, ma vabbè, è un altro discorso questo. E poi niente, in ogni caso dovrà sempre comunicare questo famoso numero di protocollo del certificato. Quindi questo sostanzialmente è poi l'obbligo, diciamo, di presentare o inviare, diciamo, la forma proprio cartacea resta in vigore solo se sei il medico proprio che l'ha certificato in quel modo, perché magari c'era un problema sul sistema, sì, quindi c'è una via d'uscita, però a lungo andare quello dovrebbe essere le eccezioni, appunto, dovute magari a problemi del momento. Certo. Se no, questo è quello che spetta al lavoratore. E niente, il problema appunto che però poi ci possono essere appunto difficoltà proprio dovute magari a disattenzione, certo, e anche i casi a ovviamente disfunzioni sono del sistema, che sono ancora infiniti. Non è ancora, tutte le strutture non sono a regime, quindi c'è ancora, viviamo nella fase di limbo tra carta e online, e però online a lungo andare dovrebbe scomparire. Allora, dottor Scotti, ovviamente lei ha il polso della situazione in quanto vice segretario nazionale della Federazione dei Medici di Famiglia. Vorrei capire da lei quali in questi mesi sono state le problematiche maggiori, perché immagino che anche per voi non sia stato semplicissimo poi questo passaggio. A dire il vero, sostanzialmente con l'aiuto dei software gestionali e anche di applicazioni che ormai sono disponibili anche per gli smartphone, in linea di massima il sistema della medicina generale, della medicina territoriale, si è adattato rapidamente. Quello che rimane ancora non disponibile, o perlomeno non disponibile su tutto il territorio, un po' a macchia di leopardo, è la parte di invio certificativo online, riferita, come giustamente sì, diceva il dottor Passari, alla parte ospedaliera. Se si pensa che una circolare della SOGEI, che è del sistema ATS, che praticamente è il sistema attraverso il quale le certificazioni arrivano all'INPS, è stata definita per le dimissioni ospedaliere per il pronto soccorso all'inizio di luglio di quest'anno, ovviamente è un processo in itinere che comporta delle tempistiche e anche un investimento rispetto alla parte amministrativa, non solo medica, perché certo, ci rendiamo conto che all'accesso a un pronto soccorso, come dire, una cosa è andare dal proprio medico di famiglia che ha nel suo database tutti certo, i dati anagrafici del paziente, certo, altra cosa è andare in un pronto soccorso di un ospedale dove questi dati potrebbero rischiare di essere inseriti nella loro totalità con un dispendio di tempo che chiaramente il medico in una condizione di quel genere non dovrebbe essere tenuto a fare. Quindi c'è un problema organizzativo e amministrativo in molti ospedali che crea una disfunzione, oltretutto che è poco chiara ai cittadini, perché il cittadino poi tende ad interpretare rispetto al rilascio di una certificazione cartacea che questa poi debba essere inviata, ecco, dal suo medico di famiglia. Questa è una cosa che non solo non si può fare, ma è contro il codice deontologico. Ecco, appunto, no, questo è importante sottolinearlo, perché, e ci tengo che entrambi i nostri ospiti, sia il collega Fassari sia il dottor Scotti, sottolineino come poi non debba essere il certificato cartaceo a essere inviato, e che comunque resti in capo al lavoratore la sola comunicazione del numero di protocollo. Giusto, dottore? Il discorso è che il lavoratore formalmente a oggi ha l'obbligo di inviare esclusivamente il numero di comunicare, ecco, il numero di protocollo, però anche rispetto alla sentenza che lei citava, sì, vanno divisi due momenti. È certo, il assolutamente. Lavoratore ha comunque un obbligo che è suo e che non c'entra niente con la parte certificativa, di avvisare il suo datore di lavoro dell'assenza, appunto. All'apere di quello poi deve giustificare l'assenza, e lo può fare oggi attraverso il numero di protocollo, se ottenuto attraverso una certificazione, sì, appunto con invio telematico, o il certificato cartaceo nel caso che sottolineava anche il dottor Passari, perché ci possono essere dei problemi di collegamento e quindi sì, conseguenti a questo, oppure perché tale certificato si è ottenuto da un medico in una struttura che non è ancora abilitata, certo, a questo tipo di servizio. In quel caso il lavoratore non può pensare che ci sia un altro medico che invii quel certificato per nome e per conto di un altro medico, perché questo è un reato anche deontologico. Nessun medico può ricertificare certo, una cosa certificata da un altro medico. Quindi in quel caso il lavoratore deve attenersi alle vecchie disposizioni, ovvero inviare per raccomandata all'INPS la certificazione cartacea ottenuta e praticamente darne copia al datore di lavoro. Allora, dottor Scotti, io le giro subito una domanda che sapevo che sarebbe arrivata, ed è giusto che sia anche così, magari speravo un po' più avanti, ma introduciamo anche questo tema. Barbara da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Siamo una piccola realtà artigiana, io sono la datrice di lavoro, volevo chiedere quali misure può mettere in atto il datore di lavoro a fronte di una evidente connivenza tra medico e paziente. Mi spiego meglio. Paziente, quindi lavoratore, messo in ferie, dal giorno dopo della messa in ferie cominciano ad arrivare i certificati medici di malattia. Certificati medici ai quali noi reagiamo con delle visite fiscali l'ultimo giorno di malattia della dipendente, 3 mesi conseguenti, 15 giorni, un mese via dicendo, il medico di visita fiscale dichiara il lavoratore idoneo al lavoro dall'ultimo giorno, esattamente. Il giorno dopo iniziano le ferie aziendali, il dipendente si fa 15 giorni di ferie aziendali, quindi guarito perché l'azienda non riceve certificati, dal primo giorno di ripresa del lavoro arriva di nuovo l'ennesimo certificato con un mese di malattia. Allora, signora l'azienda Barba, come si può tutelare? Allora, diciamo che allargando un po' il discorso, dottor Scotti, questa è una tematica che immagino voi vi troviate ad affrontare anche solo per, diciamo, per discussioni, per sentito dire, però esiste anche questo problema, ci sono dei medici. Però dividerei un po' ecco, il ci problema, dica. Mi permetta, cioè formalmente il datore di lavoro parla di una connivenza, sì. Noi sono anni che come federazione facciamo una battaglia perché rispetto ad alcune certificazioni ci possa essere un accordo con Confindustria, con lo Stato e con i medici tutti, quindi sia fiscali che medici, sì, di famiglia, perché il lavoratore possa autocertificare alcuni i primi giorni di malattia. Le spiego perché, sì, perché molte delle malattie che vengono segnalate al medico curante molto spesso non sono oggettivabili, cioè se da me viene un pilota, certo, di aereo che mi dichiara un mal di testa, certo, io non ho una capacità diagnostica di definire quel tipo di patologia, posso valutare, certo, dei segni indiretti e ovviamente non ho una certezza oggettiva di diagnosi. Oltretutto l'attestazione di malattia che fa un medico di famiglia diventa reale certificazione di inabilità al lavoro proprio attraverso la visita fiscale. Se la visita fiscale conferma il periodo non riesco a capire quale sia la connivenza. Allora, un altro ascoltatore attraverso Twitter ci scrive: cosa si deve fare per annullare parte dei giorni che il medico stabilisce? Ad esempio io immagino di guarire, cioè sono guarita prima del tempo, mi sento in forma, posso tornare a lavorare, come mi devo comportare? Dottor Scotti? In questo caso formalmente la ripresa del lavoro determinerà la comunicazione tra il datore di lavoro e l'INPS relativamente al periodo che andrà coperto sul piano assicurativo della tutela della salute del cittadino. Quindi sostanzialmente basta che io torni a lavorare? Basta che riprenda il lavoro, anche perché la prognosi è un dato suppositivo sulla base di una valutazione generalistica della patologia. È chiaro che poi c'è un'individualità che in molti casi può determinare oppure una risposta diversa alla terapia da parte del singolo paziente che può ricondizionare una ripresa al lavoro, ma in quel caso sul certificato non va fatto niente, anche perché i certificati emessi dopo 48 ore non sono più rettificabili. Allora, perfetto, chiarissimo. Con il mese di settembre, insieme alla scuola e all'attività lavorativa, riprende a pieno regime, per chi lo pratica, anche lo sport. Per molti, la palestra, la piscina o la squadra di calcio sono uno svago che aiuta ad affrontare al meglio la settimana. Per altri, in molti casi per bambini e ragazzi, un impegno molto serio, anche a livello agonistico. In tutti i casi, non bisogna dimenticare che anche queste attività comportano alcuni adempimenti, alcune precauzioni importanti per la nostra salute, alcuni costi. Incombenze che si esauriscono, nella maggior parte dei casi, in un unico documento da presentare alla propria struttura di riferimento, il certificato medico sportivo. Attenzione però, perché non sempre il certificato è obbligatorio e negli ultimi mesi sono cambiate più di una volta le norme che lo stabiliscono. L'ultima variazione si rifà al cosiddetto decreto del fare. Il primo passo per orientarsi tra le nuove linee guida è capire in quale categoria si inserisce la propria attività sportiva. C'è chi pratica uno sport agonistico, chi si limita a un'attività amatoriale o ludica, chi pur non facendo agonismo svolge comunque un'attività sportiva a tutti gli effetti. L'esenzione, in ogni caso, riguarderà molte persone, da chi va in palestra a chi gioca a calcetto per passione, e le nuove regole hanno generato un po' di confusione e preoccupazione negli ultimi mesi. Da un lato, tra i medici, a cui spetta la scelta di indicare, se necessario, un esame diventato per così dire facoltativo. Dall'altro, le stesse palestre e i centri sportivi, in alcuni casi, rendono obbligatori per l'iscrizione alcuni esami, che pure non sono più richiesti per legge, con lo scopo di tutelarsi da incidenti spiacevoli. In questi casi, però, si impone al cliente una spesa non necessaria. Risparmio e precauzione sui piatti della bilancia, insomma. E sono in molti a chiedersi fino a che punto la prudenza è eccessiva o il costo superfluo. E allora, per parlare in particolare dei certificati medici in ambito sportivo, ci ha raggiunto telefonicamente Roberta Fada, segretario generale della Federazione Italiana Fitness. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Prima però voglio dare la parola a un ascoltatore, Salvatore da Salerno, perché solleva una questione importante che prima abbiamo in qualche modo un po' tralasciato, che è quella della privacy sul certificato, da cui sono escluse alcune categorie. Buongiorno signor Salvatore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci dica. Allora, io sono un appartenente alle forze dell'ordine e so che c'è la privacy per quanto riguarda la diagnosi sul certificato. Io vorrei, dato che il mio datore di lavoro mi obbliga a scrivere la sì. diagnosi sul certificato, vorrei sapere dal dottore se questo è possibile dalla legge o meno. Però lei appunto appartiene alle forze dell'ordine, giusto? Sì. Certo. Allora, dottor Scotti, nella chiacchierata che abbiamo fatto prima della trasmissione, appunto, ci siamo ricordati che ci sono delle categorie che sì. sono esenti, diciamo, da questo sì, obbligo della privacy. Il medico non può effettuare l'invio telematico riferitamente a delle categorie che sono i vigili del fuoco e le forze armate e i corpi armati dello Stato, quindi forze di polizia, carabinieri, nei quali rimane la definizione di una certificazione cartacea. E dove bisogna mettere la diagnosi? Su una certificazione cartacea, questo il medico praticamente è tenuto, sostanzialmente non dovrebbe essere tenuto solo a mettere una diagnosi, ma dovrebbe esserci una correlazione tra la diagnosi e l'inabilità lavorativa, visto certo. il tipo di lavoro che fa il soggetto. Quindi ci sono delle categorie tra le quali appunto quella delle forze dell'ordine alla quale il signor Salvatore appartiene. Allora, io per dovere di cronaca, dottor Scotti, le devo anche dire che sono arrivati altri messaggi in merito alla connivenza tra medico e paziente e tra i medici, diciamo il medico di base e il medico fiscale. Glielo dico perché ovviamente questo è un tema abbastanza dibattuto. E ci sono persone, guardi, datori di lavoro di che si chiedono proprio come fare per cercare di... Il problema di fondo è che è chiaro che se ci siano da parte degli enti datoriali dei fatti però non di sospetto basati su dichiarazioni come quella che si sentiva prima, in cui formalmente la connivenza sarebbe addirittura doppia, no? Perché se il certificato viene confermato dal medico fiscale ci dovrebbero essere due medici che sono conniventi con un lavoratore nel confermare una diagnosi e sì. una prognosi, sì. mi pare un attimino, arriveremo all'associazione a delinquere a questo punto. Il problema è che se ci siano dei dati oggettivi di questa cosa si può ovviare con una segnalazione all'ordine di appartenenza che indagherà e chiederà certo. al medico notizie rispetto a comportamenti che però siano effettivamente comprovati rispetto a delle situazioni che abbiano dei dati di prova che non possono essere solo suggeriti da degli atti conseguenziali. Certo. Il sistema online, se mi permette, sta permettendo anche al Ministero di monitorare particolari flussi di certificazione. Beh, certo, assolutamente. Non mi pare che da questi flussi ne sia venuto fuori dei comportamenti particolarmente aberranti da parte della categoria medica, né mi pare che ci siano molti medici condannati né sul piano ordinistico né sul piano giudiziario per quello che è un reato. Il falso ideologico è un reato. Beh, certo, assolutamente. Quindi formalmente, ripeto, dobbiamo muoverci dalla fase delle dichiarazioni di connivenza per arrivare a delle prove. Certo. Quando, oltretutto, la richiesta della visita fiscale mette il datore di lavoro nella condizione di controllare con una struttura terza e completare il percorso certificativo con un altro medico. Cioè, alla fine, a quel punto, se ci fosse stata una connivenza tra il medico originario e il lavoratore, un secondo medico diventa connivente anche lui. Mi pare un attimino che si metta in discussione assolutamente. La qualità professionale di una categoria, prescindendo dalle prove. Assolutamente, ma lei ha ragione. Io diciamo così, ci ho tenuto a farle presente anche quelle che erano, quella che è la sensibilità in questo momento degli ascoltatori. Dario da Pavia, buongiorno. Buongiorno, io sono un medico di Pavia, un medico di famiglia, quindi mi trovo giornalmente a avere a che fare con certificazioni di malattia. E sicuramente è stata una rivoluzione anche importante e ha portato dei giovamenti soprattutto per il paziente, che non deve più recarsi in posta a fare la raccomandata, a spendere i 5-6 euro della raccomandata, eccetera. Questo secondo me da una parte favorisce anche un pochino l'assenteismo, perché se uno pensa che va dal medico, poi deve andare in posta a fare un'ora di fila, magari non sta bene, ci pensa due volte prima. Per noi medici non è stato un grande miglioramento, perché ci ha portato ad avere degli aggravi di costi per l'informatizzazione degli studi, per le responsabilità restano quelle di prima, non c'è stato nessun miglioramento economico, nessun riconoscimento neanche minimo, anche solo per diciamo pareggiare le spese che sicuramente ci sono state. Tengo a precisare che pur io sono in una zona privilegiata, Pavia, dove l'informatizzazione, le linee telefoniche funzionano, le linee telematiche funzionano abbastanza bene, ma abbiamo delle giornate allucinanti con interruzione dei collegamenti, quasi sempre di lunedì, quando il certificato di malattia, specialmente d'inverno, caso sono 10-15, sì, quasi sempre, non esclusivamente, ma quasi sempre, e chiaramente con disagi di code per i pazienti, e ambulatori sovraffollati, quindi ecco, volevo semplicemente dire che non tutti hanno avuto dei benefici. Sicuramente non i medici di famiglia. Grazie della sua testimonianza, signor Dario. Io invece volevo girare subito sia Roberta Fadda sia Luciano Fassari un sms di un ascoltatore che ci scrive: caos totale, nemmeno la piscina è in grado di dire cosa serve a corso iniziato. Allora Luciano, in brevissimo, riusciamo un attimo a descrivere che cosa è successo in questi ultimi mesi? Da aprile ad oggi c'è stato un cambio repentino delle regole per quel che riguarda i certificati da presentare nelle palestre, nelle piscine, ovunque si faccia attività sportiva. Sì, guarda, devo dire un affare che è stato, potremmo dire, quasi proprio schizofrenico. Cioè, a ottobre scorso fu emanato un decreto dall'ex ministro Balduzzi in cui si sostanzialmente estendeva a ogni tipologia di attività la certificazione. E proprio la motivazione che veniva data era quello per offrire più garanzie, per fornire anche una prevenzione migliore. Sì. Ad aprile sono state emanate, sempre dall'ex ministro Balduzzi, proprio le linee guida, insomma il decreto attuativo che poi definiva proprio queste tipologie di nuovi certificati, e quindi sembrava appunto una stretta sul certificato, per farla breve, senza entrare nel particolare. Invece nel DL Fare, come giustamente diceva il vostro servizio, un emendamento dal Senato ha di fatto abrogato questa l'obbligatorietà del certificato per quelle che venivano considerate le attività ludico-ricreative amatoriali, cioè, ovvero semplicemente anche l'andare in palestra senza partecipare chiaramente a nessuna competizione o andare a fare in piscina il nuoto libero. Ecco. Sì. Quindi sostanzialmente ad oggi per queste attività non sussiste più l'obbligo. Il problema qual è? Innanzitutto è da pochissimo che questa abrogazione vada in vigore, quindi parliamo proprio di 2-3 settimane fa, quindi rientro dalle vacanze, sia le strutture, i medici, ma gli stessi poi i cittadini non sanno un attimino cosa è successo, per cui ci stiamo trovando nel caos, ovvero che pur non essendo, non sussistendo l'obbligo, molte strutture richiedono comunque il certificato per tutelarsi, per non avere poi la responsabilità, perché insomma può capitare, no? Assolutamente, sono cose che comunque succedono. E quindi in questo caso sostanzialmente, se de facto l'obbligo per la maggioranza delle persone non c'è per legge, però poi de facto invece il certificato nel 90% dei casi va fatto, ho anche notizie di qualche struttura che proponeva anche una autocertificazione. Ne parleremo tra pochissimo, in questo momento dobbiamo fermarci, dare la linea alla viabilità, subito dopo ancora con i nostri ospiti. Allora, dottoressa Fadda, io subito la chiamo in causa e a lei giro subito la domanda di un'ascoltatrice che è collegata con noi telefonicamente, Rosalba dalla provincia di Sondrio, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti. La mia domanda è la seguente. Ho il bambino che frequenta il corso di nuoto, sta imparando a nuotare. Ogni anno questo certificato medico di 30 euro. Sì. Volevo sapere se con le nuove disposizioni c'è ancora l'obbligo di questo certificato oppure no. Allora, dottoressa Fadda, che cosa possiamo rispondere alla signora Rosalba? Buongiorno, in qualità di Federazione Italiana Fitness devo dire che anche noi abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni e domande in merito. Devo dire che noi seguiamo i centri fitness e centri fitness che hanno anche l'interno naturalmente anche il nuoto. Sì. Noi attualmente consigliamo vivamente il certificato medico ancora, perché questa legislazione, questo articolo è abbastanza ancora vago, per cui i professionisti anche del settore stanno studiando in modo dettagliato, perché la dicitura di naturalmente un'attività sportiva amatoriale svolta in modo non continuo è abbastanza equivocabile. Certo. Quindi confidiamo in chiarificazioni ulteriori, perché la norma letta a fondo è complicata e, ripeto, liberamente interpretabile. È quindi sempre bene avere un certificato medico, anche in caso sfortunatamente di eventi gravi. Certo. Quindi l'attività sportiva non continuativa, diciamo che è difficile definirla, perché un cliente o come il bimbo della signora può frequentare lezioni di nuoto in modo non continuo, ma ugualmente in una struttura che è organizzata e fa attività sportiva. Noi consigliamo questo. Allora, Antonio da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io chiedevo, in merito a quello che ha detto il vostro ospite, io ho due bimbe minorenni che mi hanno assolutamente chiesto il certificato. E poi io non riesco a capire come mai la palestra si vuole tutelare, ma se c'è un decreto legge, a me non... Allora... Sì, ho capito perfettamente, certo, assolutamente, perché sappiamo che questi certificati non sono gratuiti. Infatti anche un costo. Allora, dunque, dottoressa Fadda, io volevo capire una cosa. Lei giustamente ci ha detto noi consigliamo vivamente il certificato, però io voglio capire questo. All'interno di alcuni centri questo diventa un obbligo? Diventa motivo per rifiutare una iscrizione? No, non diventa assolutamente un motivo di rifiutare un'iscrizione, quindi questa è una libera scelta, diciamo, del responsabile dell'associazione sportiva. Sì. Non deve essere presa come imposizione, sì. però è talmente tanto vaga e interpretabile che il soggetto, ma anche per il soggetto stesso, è sempre bene avere naturalmente un controllo di un medico. Ci sono casi in cui persone non sapevano di avere determinate patologie, con un controllo medico sportivo si sono scoperte, quindi anche da parte di chi naturalmente va a fare la visita c'è una tutela maggiore. Quindi ritengo che la tutela maggiore non sia solamente da parte del centro sportivo, ma sia anche della persona che frequenta. Certo, allora Luciano Fassari, ci dicevi poco fa che addirittura qualcuno ti aveva parlato della possibilità di un'autocertificazione, giusto? Sì, qualcuno mi ha detto, insomma, non ho sentito direttamente la struttura, però che alcune così centri propongono anche un'autocertificazione, uno scarico di responsabilità. E onestamente qui entriamo in una nebulosa che, appunto, la confusione che regna è stata sovrana. Creata poi premia e favorisce, ecco. Io però volevo girare questo tuo resoconto, racconto al dottor Scotti, perché volevo anche capire se in questi casi è possibile, cioè è pensabile un'autocertificazione per fare un'attività sportiva. Non so se questa cosa è anche pensabile. Assolutamente un paradosso, lo dico molto sinceramente. Il dato è che formalmente voi avete anche allargato il periodo della confusione, anche perché il decreto ministeriale di aprile è stato reso pubblico su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio, il 21 agosto è stato cambiato col decreto per fare, quindi nel giro di un mese, in un periodo in cui ovviamente tutte queste attività erano in qualche modo sospese nella maggior parte dei casi per la pausa estiva, ovviamente adesso ci troviamo alla ripresa di queste attività in presenza di due norme che si sono susseguite, che dicono apparentemente delle cose diverse, e quindi le fasi interpretative diventano difficili da determinare. Noi come federazione ci eravamo posti il problema, abbiamo chiesto all'ufficio legislativo del Ministero della Salute un'interpretazione, c'è stata anche una circolare che dice con molta chiarezza che è stato soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico-motoria amatoriale. È assolutamente coerente il consiglio che dia una palestra che oltretutto era già presente nello stesso decreto Balduzzi. Il decreto Balduzzi per le attività per le quali all'epoca non riteneva ci fosse l'obbligo della certificazione, attività motorie come il gioco a bocce, biliardo, golf e quant'altro, comunque consigliava e raccomandava un controllo medico prima dell'avvio. Quindi consigliare a un paziente che si rechi a un'attività fisica un controllo medico, almeno di parlarne in qualche modo col proprio medico curante, è un dato. Altra cosa è pretendere per prescrizione una certificazione, perché il decreto Balduzzi ha definito in qualche modo tre livelli certificativi. Un livello certificativo che è quello ludico-motorio amatoriale, che è differenziato da un'attività saltuaria, viene definita tutta l'attività motoria praticata da soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali. Le chiedo di essere molto breve perché siamo davvero in chiusura. No, l'altro dato è il certificato sportivo non agonistico. Se la palestra o l'attività determina l'iscrizione del praticante a una federazione sportiva, in quel caso rientra invece nell'obbligo certificativo. Grazie a tutti i nostri ospiti per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di Green una buona Network giornata. Luce e gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi ha presentato Salva Danaio.